Giorno verrà e ci potrà sorprendere. Rispondere, a divorarci gli occhi con la curiosità di quel che è stato e di quello che ci aspetterà. Quanto di noi potremo mai nascondere? Quanto di noi sapremo mai comprendere? Conta o non conta, ognuna parlerà per sé, come se avesse avuto tutto quel che c'è. Nessuna vorrà chiedere se è vero. Intorno all'apparenza lo stupore sia sincero, e avremo fame di parole che non ci facciano sentire sole, e ci facciano ricordare quello che piano piano se n'è andato via. Giorno verrà e ci farà sorridere. Prima di ripartire non pensarci più.